Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Secondo me non vi siete accorti tanto di quanto è forte Ronaldo. No, io sono di aquí. Mi raza! Io sono di aquí. Del barrio che me vengono a sé, dalle schiene che me vengono a sé, le cagne con quello pane fumando, con palo sognando, dammi che ne le botte il barrio da un'altra ciudad, io tutto sia un sostituto. Ronaldo isolato, leva il tempo di Ronaldo, leva il tempo di Ronaldo! Suecia 0 Portugal 1 a caminho do Brasil. Papi, eu sou de aqui. Para o Gabriel, para o Ronaldo, o Gabriel, para o próprio Cristiano Ronaldo. Vai lá, Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Altro pallone d'oro a Messi non lo danno a Cristiano Ronaldo. In generale, però, io e Pardo andiamo a fare un sit-in in piazza del Duomo a Reggiolo. Vado lì pure io. Cioè, ecco, se potessi unirci anche qualcosa di alimentare, visto esatto. Che ho avuto il piacere. Se ci anche un ristorante. Non mancherebbe. Luigi Pardo, ti è piaciuta questa clip? Mi è piaciuta. Ieri dopo la tripletta gli ho mandato un messaggio da Celotti, ma non mi ha risposto. Non ti ha risposto? Gli ho detto stai già facendo il sit-in, non mi ha risposto. Sì, siamo già tutti là in piazza del Duomo. Mi dicono che a Reggiolo c'è la Rocca, confesso tutta la mia ignoranza, però noi siamo già là, anche perché hanno riaperto le votazioni sì. Per il pallone d'oro. La notizia di oggi dicono. È questa. Allora, scrivono sì. La votazione era già chiusa da qualche giorno, ma a sorpresa il pallone d'oro si potrà votare fino al 29 di novembre. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, secondo il quale FIFA e France Football hanno inviato una circolare ai giurati per comunicare la proroga. 800240024, provate a dirmi, a intervenire, a dire a me, a Pardo, che Cristiano Ronaldo non merita questo pallone d'oro. Franco Piantanida, in redazione, Roberto Scaltritti in regia, allora la clip. C'è anche Ibra, per cui il mio cuore sanguina. Quando ieri sera è stato meraviglioso questo duello, questo scontro all'OK Corral, faccia a faccia, segna Cristiano, doppietta di Ibra, poi Cristiano va di là, segna, io sto a chi come sempre. E Ibra che dice, ma tanto il mondiale senza di me non vale niente. Bellissimo, eh? Io ieri sera l'ho twittato e ribadisco che io sono dalla parte di questi due, insomma, proprio il maschio alfa. Anch'io. Non c'è niente da fare, insomma, per carità, adesso non dobbiamo dimenticarci di quanto sia forte Messi solo perché si è fatto male. Cioè, Messi è uno che ha dei numeri anche in questa stagione, nella quale è stato comunque un po' tormentato dagli infortuni, impressionanti. Però non c'è nessun dubbio che due personaggi come Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic siano veramente personaggi a 360 gradi, cioè riescono ad unire a delle doti eccezionali dal punto di vista tecnico, una personalità e certi comportamenti delle volte anche un po' sopra le righe, che però sono, per me sono il calcio, c'è personalità, a noi piacciono quelle facce lì. Sì. Poi, da canaglie. Poi il contro ti può piacere anche il bravo ragazzo, pensa a Pepito Rossi, che è l'esatto contrario, no? Sì, sì. E, mi piace e Pepito Rossi giocatore, ma preferisco quelle facce lì da canaglie. Ma no, io non lo so. Io sì. Sì, io sì. Sono d'accordo con gente. All'alba delle 14:15. Senti, poi c'è anche questo messaggio: dannati francesi, non importa come, ma bisogna andare al mondiale. Lo ha detto Platini e così fu. Lo legga, intima Roberto da Belluno. Lo legga, che male c'è. Poi ne parliamo, ne parliamo anche. Io lo darei a Robben, che ha vinto tutto. Robben, quello che passa più tempo in ospedale che in campo. Bravo giocatore, calma, però. Bravo giocatore. Però è un lungo grande giocatore, ma un lungo degente. Non bisogna dimenticarsi Ribéry. Cioè, adesso siamo tutti ovviamente. Sul discorso del pallone d'oro, siamo tutti ovviamente emozionati da Cristiano Ronaldo, però insomma Ribéry anche ieri, anche nella partita della Francia di ieri, fra mille polemiche, sicuro, ha messo comunque aiuto, è caduto tutto bene, fatto? Che sono tutto a posto, riuscire a far cadere la cornetta di un telefono fisso vuol dire proprio, secondo me, una certa classe, Anche qui ci vuole personalità, non è da tutti, esatto. 800 24 00 24, abbiamo il... Cosa abbiamo adesso? 14:15, pardon. Il traffico, beh, certo. E allora? Sava San Dio. Tutti convocati. Io ti adoro, tu che mi scrivi non capisci niente di pallone, ne vado fiero perché guardo il pallone come un'opera d'arte, come un quadro di Warhol, di Kandinsky, di chi vuoi tu, Pardo. Per me il calcio è poesia, io parlo di quello che mi emoziona, non voglio capire niente di niente, voglio solo provare, sentire. Come ha sentito la musica, forse, Cristiano Ronaldo ieri mattina? Allora, c'è un pazzo svedese che ieri mattina alle 7 è andato sotto l'albergo del Portogallo e nel tentativo di dare fastidio ha sparato la musica a manetta. Il mondo è bello perché è vario. Allora, questo ieri mattina alle 7 non lo so, aiutami, non a Lisbona. Beh, non pensa, Carlo, è che l'abbiano fatto in Svezia. Appunto, perché, questo è successo. Queste robe non, le fanno in tutto il mondo, non, non a Istanbul, non in una città latina, a Roma, non a Napoli, ma a Stoccolma, hai capito? Sì. Umano è questo, E Cristiano se ne è fatto un baffo e ne ha segnati tre. Così la tecno tanto a lui piace. Allora, posto che è aperta la corsa al pallone d'oro, Pierluigi, seriamente, c'è un falso storico in questa notte eccitante da morire di calcio internazionale. Cioè, il falso storico è che Zlatan Ibrahimovic non segnerà mai un gol ad una fase finale dei mondiali. Tu che sei bravo, presenta la nostra ospite. Beh, è la biografa ufficiale di Zlatan Ibrahimovic, oltre che una giornalista svedese che parla un italiano eccezionale, e famosissima in patria, ma essenzialmente è la donna che fa tutti gli scoop di Ibra, cioè quando Ibra parla, parla con lei, questo mediamente. Poi adesso cercheremo di farlo venire a Tiki Taka, ma insomma fino a che non arriverà quel giorno, ecco a voi, Jennifer Wegerup. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Come va? C'è un po' di depressione? Sì, siamo depressi perché tutta la primavera sarà più fredda, insomma meno interessante. Tutti noi giornalisti, ma ovviamente tutto il popolo svedese è depresso. Jennifer, c'è questa dichiarazione di Ibra, ma tanto un mondiale senza di me è inutile guardarlo. Girano anche ovviamente sul web delle foto con Ibrahimovic con sotto il braccio, ovviamente fotomontaggi, con un televisore gigante sotto il braccio. Un po' offensivo, Sì, esatto. No, ma lui l'ha detto un po', lo sai come lui fa queste battute. Infatti me l'ha detto, ci siamo visti 2 settimane fa a Parigi e lui ha detto: la gente non mi capisce, non capisce che scherzo. Mm. E ovviamente non lo intende così, però era molto deluso anche lui ieri sera. Su questa componente ho parlato forse 10 volte nella mia vita con Ibra, non di più, quindi Jennifer la conosce molto meglio, però questa componente qui dell'ironia di Ibra l'ho colta, cioè a me sembra molto diverso dallo stereotipo che gli viene dipinto addosso, è così Jennifer? Cioè alla fine è molto più autoironico di quello che sembra. Oh sì, sì, sì, sì, sì, sì. Infatti lui mi ha detto, ne abbiamo parlato, ho fatto un'intervista sia per TV sia per il giornale, è bello guardarlo, perché lui è molto serio quando parla e mi guarda e mi dice, io poi da giovane facevo sempre queste battute con i giornalisti, ma loro non mi capivano. Quindi è venuto fuori questa immagine di me da stronzo, ma non sono così. Poi ovvio lui ha anche un lato duro, altrimenti non sarebbe a questo livello, ma come tanti, ma lo stereotipo lui non è così, ecco. Posto che a me a Pardo piacciono un sacco gli stronzi? Perché, no, ma perché è così, no, stavamo parlando appunto, cioè non c'è gara tra Ibra, Cristiano e Messi, noi stiamo dalla parte dei primi due, perché ci piacciono quelle facce un po' così. Jennifer, mi aiuti a spiegare questa storia che a me dà molto fastidio personalmente, ma perché secondo me è stata fatta molta demagogia e ci sono tanti ascoltatori che scrivono questa storia del bambino malato a Parigi eccetera, secondo me sì. È stato un grande casino sul nulla. Esatto, no, ma questa è una cosa terribile, perché ti immagini se uno dovesse scrivere così di te, cioè veramente la cosa peggiore del mondo, si dice ah c'è questo bambino malato, tu non lo vuoi vedere. Vi spiego, perché ne ho anche parlato con Zlatan. Uno, vi potete immaginare quanti bambini malati ogni settimana sì, scrivono appunto, e vogliono vederlo, appunto. Ma ogni settimana, quindi lui è rimasto molto male, anche la sua compagna, del fatto che i genitori e la gente intorno a questo bambino, anche i giornalisti bosniaci, insomma ne hanno scritto, ne hanno parlato, si sono rivolti ai media, perché così fanno fare un figura di merda a Zlatan. Uh-huh. Ma lui ha detto, io non posso vedere tutti questi bambini, io sono un padre, mi fa malissimo, ma come faccio? Non farei altro, veramente non farei altro di viaggiare e incontrare bambini malati. E loro magari di nascosto, diciamo, scrivono anche alla famiglia, magari mandano dei fiori al funerale, però io ho detto, io non voglio parlare di questo per dare una bella immagine di me, sono cose che faccio senza dire mai niente. Mm-hmm. Però insomma vedere questo bambino è stato impossibile. Poi la storia che è stato a Parigi, che avevano un incontro e però non è venuto, non è vero niente. Non è vero niente, assolutamente Zlatan non sapeva che fosse lì. Sì, no, ma io non faccio fatica a crederlo, è stato anche il mio commento, cioè questo, perché secondo me è stata fatta un sacco di demagogia molto viscida su questa storia. Non so per causa o per colpa di chi, certamente non di Ibra, perché si può dire tutto di lui, ma non che non sia una persona dedicata a queste cose che sono molto delicate. Jennifer, quanta voglia d'Italia c'era quest'estate in Zlatan? Sei rimasta no, c'era. A Parigi? C'era, dove no, voleva perché... andare? No, non ne abbiamo parlato nell'intervista anche questo, perché lui era molto indeciso, perché mi ha raccontato che nella prima stagione a Parigi è stata molto dura. Mi ha per esempio detto che una volta si era allenato e tornato tre giorni dopo e le scarpe non erano state pulite, per farvi un esempio. Lui ha detto, da dove vengo io, Milanello, così, la Juve, l'Inter, le Barcellona, queste cose non succedono. Quindi mi ha detto, molte cose non funzionavano a Parigi. E quindi insomma ci stava pensando, però alla fine i soldi non c'erano nella Juve, nel Napoli per prenderlo, e allora il presidente l'ha convinto con un po'. Ma gli piaceva anche Napoli, vero? Sì, perché una volta, molti anni fa per esempio, mi pare che Navarro sì, ha portato Ibra in giro su uno scooter di nascosto, le stradine per Napoli, gli piace la città, la passione, tutto quanto, però... Purtroppo, dico io che sono appassionata dell'Italia, questi soldi adesso non ce ne sono nel calcio italiano e quindi alla fine è rimasto a Parigi. Ma secondo te chiude la carriera lì, onestamente? Chiude la carriera a Parigi? No, ma con Ibra non si sa mai, e me l'ha anche detto lui, perché lui mi ha detto ogni volta che dico che rimango, poi alla fine succede che sì, no? Non pensavo di andare via dal Milan, alla fine è stato così. Forse a me mi ha detto che quando smette di giocare vuole andare probabilmente negli Stati Uniti. E poi gli ho chiesto, poi torni a fare per esempio il direttore sportivo nel Milan, lui si è messo a ridere, detto, ma non so, è un lavoro duro, io c'è un posto libero attualmente cercando il curriculum. Ci sono le primarie, leggo anche oggi, tra Maldini in ribasso e Albertini in rialzo, ci sono le primarie al Milan, può iscriversi anche Ibra, io lo preferisco ancora giocatore. Però posso dire una cosa che magari fa un po' male a te svedese, Jennifer, al di là di Ibra Cristiano, il Portogallo più forte della Svezia, credo che anche Pierluigi sia d'accordo con me. Beh, sicuro. Sì, no, ma certo è una squadra nazionale più forte, noi siamo un paese piccolo, però ovviamente io sono svedese, volevo andare ai mondiali, poi è anche bello quando le squadre nazioni piccole vanno avanti, così rimane un po' anche su una briciola nel mondo di calcio di oggi, che non contano solo i soldi e la grandezza, e quindi, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta, insomma. Poi non avete neanche Platini, insomma. Che può dare una mano. Senti, mi dici chi è Ibra per gli svedesi, nel senso che noi poi dall'esterno chiaramente abbiamo questa immagine stereotipata, no, di un popolo ordinato, preciso, dove funziona tutto, con queste donne bionde bellissime, anche gli uomini biondi bellissimi, probabilmente anche loro. Ibra dal punto di vista proprio del melting pot per la Svezia, che cosa rappresenta? L'immigrazione, l'integrazione? Sì, no? E ovviamente è un simbolo importantissimo, non c'è nessuno come lui. Molti, quando io per esempio vado nel taxi in Svezia, sono molti immigrati che guidano il taxi, loro dicono sempre: io guardo la nazionale perché c'è Ibra, e lui dimostra che è possibile, insomma, uscire dalle circostanze difficili e andare avanti. Veramente forse più famoso del re, si dice adesso in Svezia, della famiglia reale, lo svedese più conosciuto al mondo. Grazie Jennifer. Io ti ringrazio. Ciao. Molto, ti abbraccio. Tac, abbraccio anche ciao, Ibra. Grazie. Grazie a Jennifer Begerup. Poi si dice Jagask Dai, che vuol dire ti amo, e poi è finito il mio svedese. Però tac, già buono, dai. Sai tutto quello che serve. Certo. Grattiamo, lei a quel punto dirà due di picche. Dall'Interrail ha imparato tutto quello che serve, giusto? Sì. Facendo lei ti dice io no, e tu cambi bersaglio, no? Esatto. Va bene, dopo parliamo con gli ascoltatori, io adesso vado via, te li lascio tutti perché immagino. Vai. Già cosa avranno da dire. 800 24 00 24, oppure messaggi 349 238 6666. Ovviamente c'è chi se la prende con me perché ho detto prima, insomma, su quella musica sparata a manetta nelle orecchie di Cristiano Ronaldo, no, non è Napoli, non è Istanbul, e ovviamente qualcuno a Napoli se l'è presa. Però, cascano, insomma, le braccia. Però i tifosi del Napoli hanno sentito una cosa che io già sapevo e che non a caso ho chiesto a Jennifer, perché in realtà quella cosa di Napoli che Jennifer ci ha raccontato, insomma, è stata meraviglioso. Ibrahimovic, anzi, facciamo un appello a De Laurentiis, fallo tu. No, beh, ma che devi fare? Napoli è fortissimo. No, vabbè, fortissimo. Prendi Ibrahimovic. Ma ce l'ha appena detto Jennifer, ma insomma, che veramente sta Ibrahimovic come, non lo so, Crosetis da Del Piero, okay. Cioè, è la biografa di riferimento. Che Napoli era assolutamente nella testa di Ibra all'inizio dell'estate, nel momento della Confederations Cup. Poi è ovvio che nel calcio non siamo ancora in tempo, Pierluigi, siamo ancora in tempo. Presidente De Laurentiis, se ci ascolti, prendi Ibrahimovic. 800 24 00 24, borsa. Cacci sordi, anch'io dico al Tottenham, ma cacci sordi. Convocati. Luigi Pardo, ti lascio immaginare il fiorire di messaggi SMS 349 238 6666. Ma su cosa? Su CR7 con Irina batte Ibra 4-0, su ieri sera ho tifato il Portogallo ricordando il biscotto con la Danimarca agli europei, su, ascolta questo, CR7 un sacco di gol, ma cosa ha vinto Marco da Como? Beh, due o tre cosine le ha anche vinte. Sì, no? Cosa dici? Champions, dei campionati. Cioè Champions, dei campionati. Sì. Quello che si può vincere, grosso modo, l'ha vinto. Loris da Bologna, no? Sbagliamo? Come che c'entra? No. Stazione centrale, certo. Dove si trova? Dov'è? Pronto? Sto parlando con me, scusi. Sì, Loris? Ah, no, sì, appunto, no, è che faccio il taxista, ho appena caricato una corsa radio taxi e quindi non avevo capito niente. Tutto volevo buongiorno signor Carlo, complimenti per la trasmissione, volevo fare una piccola scusi, ma lei è amico di Ettore? No. Non è amico di Ettore, è un suo collega. Sì, è un suo collega di Milano che ormai è una guest star fissa del nostro programma. Cos'è l'interista? Bravo, l'interista, sì. No, non sono amico, ma comunque. C'è Bologna Inter domenica, fra l'altro. Quindi posso sì, vabbè, l'Inter è una squadraccia, quindi no problem. No, ascolti, no, volevo fare una piccola considerazione. Prego. Riguardo Ronaldo, Ibrahimovic e Balotelli, secondo me non valgono un dito d'un piede dell'ex Van Basten. Urca miseria. Allora, Ronaldo più Ibrahimovic più Balotelli uguale meno di un dito di un piede di Marco Van Basten. Sì. Lei cosa dice? Mi metto a fare i conti perché non mi chiedo. No, adesso insomma, Marco Van Basten è stato un mio idolo assoluto calcistico. Però mi sembra che insomma, lasciamo stare il numero 45, che non è parte del discorso. Stiamo su Ibra e Cristiano Ronaldo. Beh, lo valgono. Secondo me lo valgono, Pier. Sì, secondo me anche. Secondo me anche. Van Basten. È sempre molto difficile fare il paragone fra epoche diverse. Van Basten, per me, per quello che ho capito io, che ho visto io, è una delle cose più vicine a Maradona. Che, sicuro. Anche se sono diversi, no? Però voglio dire, se parliamo di quel tipo di classe lì, è una delle cose in assoluto più vicine che si sono viste in questi anni. Sicuramente c'è anche Cruyff, che io per motivi generazionali chiaramente conosco meno. Cioè, questi qui però mi sembrano, no? Mi sembrano tutti... Mi sembrano tutti avanti, giocatori che avanti. Andranno bagno nella storia del calcio, no? Ci siano poi delle cose chiaramente. Allora, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo hanno giocato in nazionali che sono nazionali ovviamente secondarie, sì. E con tutto rispetto per il Portogallo e soprattutto per la Svezia, che sicuramente è ancora un gradino sotto. Questo gli ha tolto delle possibilità, secondo me, a livello di consacrazione internazionale, che poi è la grande domanda che viene fatta a Messi in questo momento, no? Di, per essere veramente come Maradona, vincere un qualcosa di importante con la nazionale. Credo che questo in qualche modo possa anche condizionare il giudizio. Dal punto di vista tecnico mi sembra che siamo lì. Poi è chiaro che il calcio è cambiato, quindi Van Basten, che aveva delle straordinarie capacità fisiche, era un giocatore ancora più elegante probabilmente di questi due, di Ibra sicuramente, però insomma... Ma sai, è stato speso molte volte a sproposito questo paragone anche stilistico, anche estetico, tra Van Basten e Ibrahimovic. Insomma, anche Ibra io lo trovo un giocatore estremamente elegante. Ma assolutamente, ma con quei piedi lì e quel fisico lì fa delle cose da ballerina. Appunto. Io ho deciso di portarmi dietro il telefono così leggo le mail. Beh, questa Vai. Volta, allora, questa è di Claudio da Parma. Se questa volta non danno il pallone d'oro a CR7, smetto di guardare il calcio e mi interesso solo al curling. Questa è una mail che mi è arrivata, poi leggo anche le altre. Tanto leggo gli sms, 800-349-238-6666. Prendiamo la targa di Loris da Bologna, che un giorno facciamo una puntata di Soli Taxisti. Volentieri, ma il curling è che d'estate non si gioca, quindi è comunque uno sport che ti lascerebbe dei vuoti, lo dico perché sport divertentissimo. Sì, divertentissimo. Con le scopette. Stefano, provincia di Genova, no, da Genova, non provincia, Genova città, downtown. Sì, esatto. Zona? Zona? Centro. Centro. Tifo? Genoa, no, bisogna dirlo. Non adesso. Lo dico. No, no, come non lo dice? Genoa sta dalla parte che ha cambiato allenatore qualche settimana fa, Gasperini, no, o da quella che l'ha cambiato nottetempo, no. Cioè Mihajlovic. Mi individuate, perché sono un caso particolare. Patologico? Sì, no, sono intervenuto già un paio di volte in trasmissione. Sì. Sono laziale e ho conosciuto Totti e quindi sono allora era favorevole magari alla fusione, sai che qualche anno fa ci fu quell'idea strampalata della fusione tra Genoa e Samp, no? Sto capendo più niente. Allora, io figlio genoano, però va bene, figlio genoano è laziale, ha conosciuto Totti. Sì, sono nato nella stessa via. Mi sto perdendo. Di cosa parliamo? Di Ronaldo, va bene. È uno scandalo che non abbia ancora vinto un pallone d'oro. È un giocatore di quelli che fa epoca, perché ha uno stile di gioco, una postura, dei movimenti che poi sono pressoché unici a mio parere e che rimangono nella memoria collettiva. Cristiano, no, ma a me che rimane impressa, ma credo anche a Pierluigi, è l'ossessività con cui riesce a timbrare il cartellino, soprattutto in trasferta, il cartellino del gol, perché ha delle cifre veramente mostruose. Possiamo discutere dell'aspetto stilistico, possiamo discutere del talento, della tecnica, della forza fisica, però uno che riesce a segnare quel numero di gol in trasferta è veramente impressionante. No, e aggiungo una cosa. Dilla Piero. Ovviamente è ovvio che oggi il calcio è molto materia liquida, no? È molto siamo tutti molto oscillanti nei giudizi. In questo momento Cristiano ha appena fatto una tripletta, Messi è infortunato, però io una cosa che penso da sempre, e chiaramente oggi la sento un pochino più forte, è che forse Messi sarà anche più bravo di Cristiano Ronaldo, probabilmente sì, però Cristiano Ronaldo secondo me, per le sue caratteristiche anche fisiche, è un giocatore che è più facilmente inquadrabile in qualsiasi modulo. Cioè secondo me tu prendi qualsiasi squadra, Genoa, la Samp, verissimo, bravo. E Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di due fenomeni, ma Cristiano Ronaldo secondo me è ancora più facilmente sistemabile. Valiera, cioè, sbatte dentro. Sì, esatto, è un giocatore che secondo me è un crack un pochino più assoluto. Messi, come dimostra l'esperienza con l'Argentina, è un giocatore dove comunque ha fatto grandi cose, perché non è che adesso Messi con l'Argentina sia stato sempre soltanto un flop, però è un giocatore che secondo me devi inquadrare in un certo tipo di contesto, e complessivamente secondo me in questi anni è un giocatore che ha avuto una squadra costruita meglio per lui e complessivamente una squadra più forte di quella pure eccezionale che ha avuto Cristiano Ronaldo. Sì, allora io rispondo a Danilo sempre via mail: ha vinto Champions, ma quando? Non stavo parlando ovviamente di Ibrahimovic, perché sappiamo che di Champions non ne ha vinte, ma di Cristiano Ronaldo che invece l'ha vinta, sbagliando il rigore nello shootout, sì. Perché nella vita bisogna anche avere fortuna, questo va detto. Cristiano Ronaldo sbagliò il rigore a Mosca nella finale Manchester United-Chelsea, poi lo scivolone di Terry riaprì all'ultimo rigore la sfida. Cristiano Ronaldo quell'anno è diventato pallone d'oro dopo aver sbagliato il rigore. Ci vuole anche un pizzico di fortuna nella vita, eh? Sì. C'è Francesco che scrive: Van Basten, così come Ibra, George Best e Giggs hanno segnato zero gol ai mondiali. C'è anche una nazionale che è stata inventata, è stata compilata di quelli che staranno fuori dai mondiali. Ovviamente c'è Bale, c'è Ibrahimovic, c'è poi Verapesco, c'è Amsic naturalmente, c'è Arda, c'è Lewandowski, c'è Cech in porta, eccetera, eccetera. Una buona, sarebbe una gran bella nazionale. Saverio Parma, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Tanto complimenti per la trasmissione, io non faccio il tassista. No, cosa fa? Quindi... Ah no, sono a casa. Poi comunque ma lavoro, non, è un, non serve, la... Non serve la patente. Non serve la patente. Neanche la patente. Volevo un attimino sapere un tuo parere su un mio candidato per il dopo Galliani. Mi dai un minuto però. Allora, siamo più o meno coetanei, più o meno ho capito, vabbè, che abbiamo più o meno la stessa età. Adesso che non ci sono più soldi, penso che ciò ci serve un nome. Fuori il nome. Questo per il dopo Galliani. Qual è? Te lo dico alla fine di qualche numero. Ha inventato il fenomeno Avellino alla fine degli anni 70. Oddio, mi sembra di stare a rischio, oggi mi sembra di stare a rischio a tutto. Mi sembra, oggi mi metto la cuffia, vai. Allora, ha vinto? No, ripeti. Ha inventato il fenomeno Avellino alla fine degli anni 70. Sì. Tenendo l'età per 10 anni, sfondando più di giocatore, ha conquistato lo scudetto il primo anno con il Napoli, facendo una sensazionale operazione con Francesco Romano. Sì. Ha sistemato una macchina perfetta, che era quella squadra, ha creato quello che adesso è il fenomeno udinese, ha fatto degli acquisti come Amsic e Lavezzi con 2 lire. Sì. Da 3 anni sta facendo miracoli a Bergamo. E il suo nome è? Cosa ne pensi? Pierpaolo Marino. Pierpaolo Marino, applauso, Marino. Grazie. Avevamo indovinato. Anzi, sì, per la verità Pierluigi Pardo ha indovinato ancora prima, subito Avellino, dopo la prima domanda. Avellino era troppo facile. A me non lo so, io lo inseriamo nelle primarie, dai. Ho visto i nomi che sono fatti, è chiaramente un gioco. A me sembra che quello che in questo momento sta dimostrando qualcosa in più negli ultimi anni, che ha le caratteristiche, diciamo, anche il famoso physique du rôle, sia Daniele Pardin. Per quello che sta facendo a Firenze, e perché comunque è uno che ha fatto delle cose in una situazione di sofferenza oggettiva alla Roma, con una serie di cessioni che dovevano essere avallate, in una situazione di resistenza di fatto dell'ultima parte della gestione Sensi. Poi è andato a Londra, ha studiato, a Firenze ha avuto un altro progetto, si è molto internazionalizzato, secondo me è un bel nome. Io sono d'accordo, ma dato che vale tutto, per esempio Baldini come lo vedresti? Baldini Franco? Sì, Franco. Ma io credo che Baldini sia oggettivamente sia uscito male dall'esperienza da Roma. Nessuno discute l'uomo di calcio, e secondo me nessuno discute neanche la persona, che è di eccezionale sensibilità e cultura per la media del mondo del calcio. Quindi ha sicuramente rapporti, relazioni internazionali eccelse. Alla Roma, chiaramente non è stata solo colpa sua, ci mancherebbe altro, però insomma mi sembra che dovendo esercitare un ruolo di autorità sia mancata proprio quella parte lì. Sì. Secondo me la Roma non ha costruito male in assoluto la squadra nelle prime due stagioni. Vabbè, allora apriamo anche noi le primarie. Chi vedreste, tanto oggi vale davvero tutto. Vale tutto. Chi vedreste per il dopo Galliani? Allora c'è Albertini in rialzo, Maldini in ribasso, si parla di Fenucci, di Uva, insomma tanti nomi infilati nell'urna. Strade, e poi abbiamo già un ospite in linea. Convocati. Oggi una bella partita, una bella performance di tutta la squadra. Per me, io oggi sono molto contento perché abbiamo fatto una benissima partita e andiamo in Brasile. Come ho detto prima, penso che senza la Juve non ero qua con la Francia, quindi Conte mi ha dato sua fiducia e mi ha lasciato sul campo e io dovevo fare le performance che dovevo fare, dovevo giocare bene per la Juve e anche oggi per la Francia. Io sono molto contento per questo. Intervista a Pogba realizzata da Alessandro Grandesso, corrispondente della Gazzetta dello Sport, che potete ascoltare anche sul sito della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandro. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, bellissima, tanto per cominciare, una maglia per i mondiali presentata nottetempo. Sì, esatto, è già quello un meccanismo per capire quanto la Francia sia felice di questa qualificazione, non solo la Francia ma gli sponsor in particolare, che hanno presentato la maglia al fischio finale praticamente. Al fischio finale, beh, con una maglia così ai mondiali si doveva andare per forza, Platini o non Platini, perché poi adesso l'ironia è estremamente facile, no? Sì, voglio dire, per esempio, se noi definissimo il mondiale di calcio una manifestazione per nazionali nella quale la Francia si qualifica al playoff con un gol sul quale c'è più di un sospetto, forse si arrabbiano a Parigi. Beh, si arrabbiano. È reale, ma non è la prima volta che succede, appunto, è la seconda di fila, no? E non errori banali, ma diciamo che oggi si presta meno attenzione rispetto al riferimento alla famosa mano di Thierry Henry che qualificò in pratica all'ultimo rotto della Francia. Il gol di ieri fuori gioco è un fuorigioco evidente, c'era un errore prima di quel gol, c'era un gol valido annullato, certo. È abbastanza diciamo, è compensata la situazione. Poi se si vedono le immagini, la posizione del guardalinee sulla linea, Valbuena che è abbastanza piccolo, coperto dal difensore che invece è molto più grosso da un punto di vista fisico, quindi insomma è giustificabile un errore così, è secondo me il bello del calcio. Secondo me è bellissimo invece questa revanche dei giornali francesi che hanno fatto la guerra per un anno e mezzo spietata a Deschamps e oggi squadra vera, l'equipe, rispetto. Inchinatevi davanti a una squadra vera la cui missione è di far sognare una nazione, riconciliarsi anche con chi non l'ama. Benvenuti in Brasile, le Parisienne. Insomma, oggi un trionfo di nazionalismo. Sono bastati 90 minuti effettivamente per cambiare un po' tutti i titoli e l'atteggiamento dei giornalisti. C'è in corso anche una polemica perché ci sono degli opinionisti che effettivamente avevano fatto delle critiche pesanti dopo la partita d'andata e stamattina invece si sono ritrovati a doversi un po' rimangiare tutto quello che avevano detto. C'è stato chi continua a rinnegare comunque le qualità di questa squadra e chi invece fa mea culpa dicendo vabbè, avevo sbagliato nella mia analisi, però è evidente che il rapporto tra questa squadra, o meglio tra certi giocatori di questa squadra e la maggior parte dei media francesi, è un rapporto molto difficile. Certo, si può dimenticare per qualche ora, per qualche settimana forse, però basterà secondo me un qualsiasi episodio simile al passato per far tornare su un po' questa sfiducia reciproca. Sì, Pier, d'altra parte mi sembra avesse sbagliato nei fatti anche Deschamps, ieri ne ha cambiati 5 rispetto agli 11 della partita di andata in Ucraina. Sì, però insomma io volevo sentire anche il nostro ospite su questo, mi sembra che insomma la dimensione tecnica del calcio francese sia questa, insomma, no? E chiaramente il 2-0 con l'Ucraina poteva significare un fallimento dolorosissimo, ma insomma mi sembra una squadra che si sta facendo, mi sembra una squadra in formazione. È questa la percezione che c'è anche in Francia? No, perché è comunque una squadra che ha un gruppo che continua da qua, ormai un paio di stagioni, quindi un paio di anni, quindi un gruppo che sta maturando da un certo punto di vista, però sono giocatori che si conoscono molto bene, che hanno un percorso, a parte insomma qualche innesto di giovanissimi come appunto Pogba o Varane, gli altri sono dei giocatori che hanno magari anche fatto l'europeo, quindi hanno già un vissuto comune. È una squadra che secondo me ha la possibilità di sfruttare il mondiale per diventare veramente una squadra e poi pensare effettivamente al futuro, cioè all'Europeo 2016, che qua in Francia è molto più atteso del mondiale, sapendo appunto che il mondiale è quasi un regalo che è stato fatto da Deschamps. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie Alessandro Condesso, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Quindi mi pare di capire, Pierluigi, che per te la Francia non è tutta sta gran squadra, nonostante Pogba, Ribéry e Benzema. È una squadra in costruzione, secondo me, nel senso che giustamente Alessandro sottolineava il fatto che c'è un gruppo di giocatori che si sta conoscendo sempre di più, però insomma poi alla fine è una squadra che secondo me è aggrappata alla vena di Ribéry, che è il suo giocatore sicuramente migliore, di maggiore esperienza e di maggiore caratura, e poi alla crescita esponenziale che può avvenire a centrocampo, dove io sono innamorato di Pogba, nel senso che secondo me è veramente il giocatore che può fare la differenza negli anni, se non nei secoli, perché i secoli sono tempi non calcistici. Insomma, mi sembra che la vera notizia poi era in un girone con la Spagna, non va dimenticata questa cosa. No, questo sì, però mi par di capire, diciamolo chiaramente, che se non ci fosse stato Platini, secondo te la Francia ai mondiali non ci sarebbe andata per la seconda volta consecutiva, a mano di Henry, e poi ieri questa rimontata strana. La partita ieri l'ho visto, ho fatto zapping, sicuramente c'era un gol prima che andava convalidato, il gol di Benzema è un gol assurdo, veramente è un errore clamoroso. Ma la Francia si era incasinata la vita in Ucraina, insomma, poi per il resto il suo percorso per la qualificazione a questo mondiale era stato un percorso abbastanza normale, comunque aveva la Spagna nel girone, non è facile arrivare primi se hai la Spagna nel girone, probabilmente non saremmo arrivati neanche noi, per cui insomma il vero shock era stata quella partita lì. È una squadra che ha dei giovani che stanno crescendo, insomma Varane, abbiamo le immagini negli occhi, e anche quello che ha detto Ancelotti poi dopo la partita contro la Juve, ma è un giocatore che ancora ha delle amnesie evidentemente. Davanti ci sono Ribéry e Benzema, che sono due giocatori importantissimi, soprattutto Ribéry. In mezzo al campo secondo me Pogba negli anni può rappresentare la differenza, gli altri, Caballé è un buon giocatore, Matuidi è un buon giocatore, gli altri sono un buon contesto, ma non una squadra di fenomeni, questo no. Pier, ci sentiamo domani, ci vediamo domani, ci becchiamo domani. Quando vuoi, va bene, perché adesso c'è GR. Ciao. Convocati. Dunque, dopo aver visto la fiaccola olimpica delle Universiadi, accesa a Roma dal Papa e passata oggi, transitata qui dal Sole 24 Ore, sono prontissimo, oltre che per parlare con gli ascoltatori, cosa che mi fa un grande piacere, 800 24 00 24 fino alle 15:20 come ogni giorno, sono prontissimo anche per la pagina trash di oggi. Allora, vi invito a, se avete tempo o voglia, un computer a disposizione, ad andare a vedere, a cliccare la pagina Facebook della Pepsi Cola svedese, dove è un trionfo di immagini di riti voodoo sulla bambolina di Cristiano Ronaldo, da ieri questo. Poi c'è un'altra, altro spot, questo onestamente trash ma divertente, perché nuova pubblicità, nuovo spot appunto di Foot Locker, nota catena di negozi di articoli sportivi, dove c'è Mike Tyson che bussa a casa di Evander Holyfield e gli dice: toh, ti restituisco l'orecchio. I'm sorry Evander, it's your ear. My ear. I kept having formaldehyde. Trash ma fa molto ridere, eh? Gino da Belluno. Sì. Eccomi. Vorrei intervenire a proposito di Conte e di Giaccherini. Di Conte e di Giaccherini, sì. Sì, per quel che riguarda Conte, io sono juventino, vorrei dirlo, però Conte mi sta assolutamente antipatico, perché non gli si può fare una domanda di un qualsiasi tipo ed è permaloso al 100%. Sì, è abbastanza permaloso, abbastanza suscettibile, irritabile, va bene, è vero. Visto che si fanno tante polemiche su Balotelli, voglio dire, forse ci sono altri personaggi che possono essere antipatici, sì, no, al di là della loro bravura. Ma poi le risposte alla fine si commentano da sole, no, Gino? Quindi se uno è così, o vuole dipingersi così, o vuole apparire così, o vuole essere così, liberissimo, poi ognuno ha diritto, come lei, di dire: Conte, io sono juventino, ma Conte non mi è simpatico, no? No, ma vabbè, però nel momento in cui ti presenti con dei giornalisti e vuoi rispondere a delle domande, è assurdo che non gli si possa rivolgere delle domande. Ma Giaccherini in questo? No, Giaccherini un'altra cosa. Ad esempio Conte si è lamentato del fatto che era andato via Matri, però secondo me di Matri non si sente molto la mancanza. Forse un giocatore che manca di più alla Juve, e si vede anche da quello che fa in nazionale Giaccherini. Sì, sono d'accordo, ma si era lamentato anche della cessione di Giaccherini a Conte? Si era lamentato delle cessioni, compresa quella di Giaccherini. Comunque sono d'accordo con lei sul fatto che alla fine Giaccherini sarebbe stato più utile in questa prima fase, credo, della stagione juventina, rispetto a quanto non si sia dimostrato Matri, che al Milan attualmente non la piglia mai. Poi al posto di Matri c'è Llorente, i due giocatori sono piuttosto simili come caratteristiche, come ruolo. Mi sembra che Llorente stia andando piuttosto bene, dunque mi sembra che il problema sia quello. David Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo parlare sempre sul pallone d'oro, perché per me è un premio che ha perso credibilità già dal 2010, perché non darlo a Schneider, neanche farlo mettere sul podio e darglielo a Messi, che non ha vinto nulla nei Champions, non è arrivato neanche in finale in Coppa del Mondo, è una cosa veramente che non ha credibilità. E poi non darlo un giocatore in generale come Eto'o, che è l'unico giocatore al mondo che ha fatto due volte il triplete, anche lì noto una certa simpatia interista, mi sbaglio? Sì, a parte quello. No, ma certo, ma vedi. Allora, sempre Cristiano Ronaldo, perché è il giocatore più forte al mondo. Allora si tratta, Davide, il problema è capirsi. Allora, a me il pallone d'oro è un premio che appassiona fino a un certo punto, anzi mi appassiona nulla, per la verità lo trovo un po' il trionfo della demagogia calcistica, però intendiamoci, non sono mai chiari i criteri sulla base dei quali questo benedetto attrezzo viene molto desiderato dagli sponsor, molto desiderato da chi ha lo swash piuttosto che le tre striscette, piuttosto che altri loghi, eccetera, molto ambito. Allora si tratta di capirsi a proposito dei criteri su cui sulla base dei quali questo attrezzo viene assegnato. Se lo vogliamo dare a quello che viene considerato il più forte giocatore del mondo allo stato attuale, allora è un conto. Se lo vogliamo assegnare sulla base della funzionalità di un grande giocatore all'interno di una squadra che vince, è un altro conto. E poi continuano a cambiare le regole, anche quest'anno sono state modificate di nuovo le regole, per cui arriveranno tutti i giurati. Vi ho detto prima, no, che c'è questa proroga nella votazione che lo rende ulteriormente poco credibile come premio. La notizia di oggi, a quanto pare, data dal mondo deportivo, è che viene prorogato il termine. La votazione era già chiusa da qualche giorno, ma invece adesso no, si potrà votare fino al 29 di novembre, quindi c'è questo supplemento di indagine per assegnazione del pallone d'oro. Poi quest'anno è cambiato tutto, quindi arriveranno tutti i giurati chiusi dentro un bunker e verrà aperta la busta, l'urna con i nomi dei possibili palloni d'oro. Insomma, c'è tutta questa menata qui che non è abbastanza intollerabile. Io dico che possiamo discutere di tutto. In questo momento il più forte giocatore del mondo è Cristiano Ronaldo, poi se prende il pallone d'oro oppure no, vabbè, ma ce ne faremo una ragione, andremo a fare se tira Reggiolo insieme a Carlo Ancelotti. All'ultimo giro, sì, sentiamo l'ultimo giro di, mi scrive anche Franco Piantanida, l'ultimo giro di Toir nelle chiese dello sport italiano. Allora, ieri in Gazzetta abbiamo un nuovo Mourinho. I think Mourinho is one of the best coaches, and then they bring together with all the, of course it's teamwork, right? Not only the coach, the players, the ownerships, we can have like 3, 4, maybe 5 championships in 2010 at the same time. I think he's one of the best coach, but I really hope then I can see the similar character in Coach Mazzarri. Hopefully Coach Mazzarri can starting do the fundamentals right now, and then the next 2-3 years can develop strong teams. Allora, Toir dice, avrete intuito, per un ottimo inglese, molto comprensibile, vedo che in Mazzarri c'è un carattere che è simile a quello di Mourinho, sarà uno dei più grandi coach al mondo. Poi dice, vabbè, non l'ha detto qui, ma altre cose che ha dichiarato, mi piacerebbe prendere nel gol, ma costa molto, vediamo cosa succede. Gli hanno chiesto, ma ha giocato a calcio? No, ho giocato a pallacanestro, sono stato una buona point guard, cioè una buona guardia. Cosa non semplicissima da credere vista la stazza. Però Nicola Napoli, buongiorno. Buongiorno. È un tifoso del Napoli lei? Sì, sicuramente, però non volevo parlare del Napoli. No, fa niente, però faccio un appello a De Laurentiis, prendici Ibrahimovic. Ibrahimovic no, ma non mi piace più Messi. Vabbè, allora Ibrahimovic odiamo Arsorcio, come diceva Alberto Sordi. Va bene, dica. Però io volevo parlare proprio di Ibrahimovic, Ronaldo, il confronto che avevate detto prima mi affascinava con Van Basten. Volevo dire che in effetti proprio l'Olanda non è che sia una nazionale grande, ha fatto 3 finali mondiali, ha vinto un europeo, ma con Van Basten però. E Ronaldo l'ha perso con la Grecia. L'Olanda è una nazionale di maggiori tradizioni rispetto al Portogallo. La storia del calcio dice che comunque hanno fatto, cioè, c'è stata l'epoca famosa del calcio rivoluzionario dell'Ajax, di Cruyff, delle finali mondiali, poi è arrivata la generazione di Gullit, Van Basten, Rijkaard, è arrivato il successo al campionato europeo con, ricordiamo, lo straordinario gol di Van Basten. Insomma, è un paragone abbastanza suggestivo. Comunque, al di là del numero di abitanti del bacino di utenza, l'Olanda è una squadra che ha storicamente, almeno negli ultimi 40 anni, maggiori tradizioni e anche maggiori risorse calcistiche rispetto al Portogallo. Detto questo, stiamo parlando di giocatori stratosferici, mettiamoci Van Basten, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, chi volete voi, oppure torniamo a parlarne domani, cosa dite? Perché il tempo è scaduto. Gong, eh? Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti, noi ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Merci. Oh, ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Mamma, cosa mi dici mai? Mamma. Tutti convocati.